Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buongiorno! Buona domenica! Buongiorno, buona domenica 12 marzo 2017. Domenica speciale. Fra due giorni debutto a teatro a San Babila di Milano e mi raccomando il 14. Hai capito? Il 14 al 19 con qualche volta avete scatto. Capito? Ah, Celentano. Senti, allora... Yes! Ovviamente sempre in tema, perché è la storia di un cane che abbandona i suoi padroni, giustamente, finalmente. Si vendicano. Allora abbiamo un ospite speciale che io vediamo se lo svelerei mano a mano sentendolo fare. Allora, no, adesso io lo sentirei prima di dire chi è. Prima di dire chi è, sì. Voglio riassumere i 10 punti di cui abbiamo parlato con te, sì. Angelo, importanti della relazione fra uomo e cane. Sì, di cui stiamo parlando in questa settimana. Se volete riascoltatevi i podcast, andate sul sito di Radio 24. E così voglio sentire la voce del nostro ospite specialissimo, che adoro, ovviamente. Ci abbiamo un debole, Angelo. Allora, ecco, ricapitoliamo: questi 10 punti sono una sorta di riassunto della visione che c'è in Dritto al cuore del tuo cane, che è uno dei miei libri. Allora, siccome piace molto agli ascoltatori, stiamo rivedendo questi 10 punti. Allora, il primo punto era abbandona velocemente l'idea di essere un capo. Infatti, tratta il tuo padrone come se non fosse un inferiore. quindi abbiamo una visione differente, no? Vedi, sì, la prospettiva del cane qual è? Cioè, se queste parole venissero rivolte non al proprietario del cane, ma al cane. Che funziona cosa? Lo stesso, se non venisse. Tratta il tuo padrone come se fosse normale. Come se fosse normale. Comunque abbiamo con noi Igor Sibaldi. Igor, buongiorno. Buongiorno, buona Igor. Domenica. Buona domenica anche a te. Allora, il secondo punto invece è lasciali abitare casa tua, non solo il tuo giardino. Perfetto. Lascia entrare nella tua cuccia, non azzannarlo quando cerca di entrare nella tua cuccia. Il terzo punto è approfitta di ogni occasione per renderlo partecipe della tua vita. Certo, tutte le volte che hai fame faglielo capire dove sei contento, che è il compito dei cani. Ma i cani lo fanno, eh? Cioè, tipo, sì, sì. Cioè, il cane ti vede che tu stai lì che fai le solite robe, allora cosa fa? Si mette davanti alla finestra e gratta la finestra, che così tu gliela apri, il cane esce, certo, in giardino, poi dopodiché rientra. Poi il compito degli animali domestici in realtà, no? come tutti i mistici sanno, ecco. Gli animali si dividono in due categorie, che sono gli animali selvatici e i domestici. Ecco. I selvatici sono quelli che hanno detto con l'uomo non c'è più niente da fare, lasciamolo perdere. Basta. Fantastico. Hanno capito tutto. Non capisce nulla. Hanno capito tutto quelli selvatici. Cattivo odore, sporca. Fantastico. Morde, uccide. Uccide soprattutto, invece, tortura. Gli animali domestici sono quelli che dicono, no, se ci lavoriamo noi, vedrete che cambia. Che cambia. Sono quelli più fiduciosi, quelli domestici. Sì, e fanno i professori di diverse scuole, sono dalle elementari alle medie, all'università, gli animali sono i professori dell'uomo. No? Tipo il tuo gatto è un professore. Sì, sì, sì, sì. Sì. Ma non hanno una facoltà gerarchiche, hanno facoltà diverse. Per esempio, il gatto si occupa di tutta una serie di aspetti intellettuali del padrone. Mm-hmm. No? Il cane di aspetti esistenziali soprattutto, cioè il cane è sgomento del fatto che il padrone quando ha paura si arrabbi, per esempio. È sgomento, sì, poraccio. Pure io sono sgomenta quando si arrabbia, Vaira. No, ma il cane dice se ti arrabbi, arrabbiati pure. Ma perché ti arrabbi quando hai paura? Perché notano gli animali che nell'uomo c'è questa rotazione di sentimenti, no? Quando l'uomo ha paura, l'uomo si arrabbia. Ecco, beh, bellissimo. E allora lo vede, è peccato perché è simpatico, vivrà poco. No, non vorrei sorprendermi, ma lo fa anche il cane, cioè la famosa aggressività da paura, cioè il cane si arrabbia anche sì. Lui perché ha imparato l'uomo. Ha imparato da noi, l'abbiamo influenzato. Vedi, avevano ragione gli altri animali, esatto, quelli sempre selvatici. È il rischio che corrono, poi prima si corrono che invece di insegnare imparano. Però fargli far partecipare ad un aspetto della tua vita è proprio il compito del cane, per il quale il cane praticamente sente di dover stare con l'uomo per essergli utile, per educarlo. Vedi, abbiamo un debito. Per migliorarci, sono i nostri angeli custodi. Abbiamo un debito nei confronti di questa specie. Allora, quarto punto, mettiti nei suoi panni e guarda le cose dal suo punto di vista. Immaginate, non so, il pitbull che fa così e vede il punto di vista dell'uomo che non capisce quasi niente agli occhi del pitbull. E allora lui dice, cerca di vedere però il mondo dal punto di vista suo. Cioè non giudicarlo male l'uomo, mettiti nei suoi panni, se tu non avessi la coda per esempio, come vedresti il mondo? Lui vedi che non ce l'ha, poverino, allora cerca di capire le sue difficoltà. E il cane penso che lo faccia, lo faccia sempre, sì, no? I cani tollerano tanto di noi. Sì, infatti. Allora, quinto punto, ricorda che soffre e gioisce come te. Che soffre? E gioisce come te. Esattamente come te. Nonostante le apparenze, infatti, sì. Io no, vabbè. Cioè, quindi state immaginando un dialogo che viene rivolto al cane, no? Quindi, esatto. Al vostro cane, cioè, ricorda che il tuo umano soffre e gioisce come te. Sesto punto, coltiva ogni giorno il vostro rapporto. Certo, e questo qui non c'è bisogno di spiegarlo al cane, che lo fa di mestiere. Lo fa, sì, esatto. Fangia. E il punto di oggi, il settimo, è fagli scoprire il mondo e conoscere altri cani. Perfetto. Quando siete al parco, presenta gli altri professori. Certo. Sai che io faccio... Lo riportiamo a scuola. Sì, infatti io faccio questa commedia dove è un cane che abbandona i suoi padroni e spesso ti dicono, ah, ma voi lavorate in teatro con gli attori, lavorate con i cani, è meglio lavorare con un cane attore o con un attore cane? Ci sono tanti di attori cani, che poi non è un complimento per il cane sarebbe molto meglio. Questo settimo punto invece tu che ci dici? Ecco, me lo rileggi per favore, cos'è che abbiamo detto? Allora, il settimo punto è, aspetta se non mi metto gli occhiali, fagli scoprire il mondo e conoscere altri cani. Eh beh, è importante perché, allora, dal punto di vista del proprietario, perché è importante? Perché se tu non consenti di fare questo al tuo cane, il tuo cane si chiude nel suo piccolo mondo, anche lui, no? E quindi non gli facciamo un favore, il cane ha bisogno di socializzare, di vivere la vita insieme a noi, di uscire di casa, venire con noi a spasso, conoscere altri cani, questo fa parte della socializzazione e se non lo fa... diventa più rigido, diventa più fragile e ha una vita meno felice, insomma, questo... Vedi com'è stato? Quanto manca? Un minuto. Allora, intanto sono felicissimi, ribadisco, di avere oggi tutto il giorno con noi Igor Sibaldi. Ti ricordiamo, adottiamo, Igor. Scrittore, filosofo, uno dei principali traduttori italiani di Tolstoi, no? Quindi, questo era una vita precedente. Nella vita precedente. Oggi è un grande esperto di metafisica e spiritualità. Parleremo con lui del suo ultimo libro, Al di là del deserto, edito da Salani. Ma parleremo di felicità, visto che la trasmissione di consapevolezza. Chiedimi se sono felice, consapevolezza. Capire il cane, che cosa significa capire il cane? Di fedeltà, anche di fedeltà, Igor. Capire, essere capiti dal cane. Essere capiti dal cane. Essere capiti dal cane è fantastico. Il problema è quello. Sì. Insomma, state con noi perché si prospetta una puntata fantastica. Molto, molto speciale. A tra poco. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora, il cane e l'uomo che lo tiene al guinzaglio passano accanto alla bambina, l'uomo non la guarda, il cane sì. Il cane guarda negli occhi la bambina per un attimo, dicendole molte cose purtroppo intraducibili nelle lingue degli uomini. E qui alla bambina comincia a mancare qualcosa. Ha socchiuso la bocca per fare una domanda al papà. Ma ha pensato che fosse meglio lasciar stare. Quello che manca è una risposta che adesso non può arrivarle. Avrebbe voluto chiedere perché un cane è un cane. Ma a 3 anni e mezzo una bambina sa già che questo tipo di domande non funzionano con gli adulti. Per gli adulti un cane è un cane e basta. Se vogliono sapere di più riguardo a un cane, gli adulti si accontentano di domande di domandare di che razza è, quanti anni ha, se morde, come si chiama o magari quanto costa. La bambina invece avrebbe bisogno di sapere perché i cani sono cani. Sarebbe importante per giocare a fare il cane, che è un gioco bello e che non consiste soltanto nel mettere le mani per terra e dire bau bau. Bellissimo, grande Igor. Abbiamo appena letto proprio il capitolo introduttivo, cioè una parte del capitolo introduttivo del nuovo libro di Igor Sibaldi che si chiama Al di là del deserto. Non poteva esserci inizio migliore. Esatto. Cioè, bellissimo. Si vede che l'abbiamo influenzato con le nostre storie di Igor. No, è autobiografico. È autobiografico. È autobiografico. È autobiografico, non è male. Senti, ma visto che ci siamo, ce la vuoi spiegare meglio questa cosa qui o basta a sé? È un libro di metafisica. Per cui la metafisica consiste proprio nel chiedersi perché un cane è un cane, perché io sono io. Che sono domande che non si fanno di solito, perché pensano, un cane è un cane. Basta. Che io sono io, basta. Non avrai altro io all'infuori di te. Che non sono domande nemmeno che uno fa da solo a se stesso. No, uno prende per buono tutto. Ma perché? È la fisica. Cioè quello che nella filosofia tantissimi anni fa si chiama ta physica, cioè l'osservazione delle cose come sono. Poi c'è la metafisica, cioè pensare di più, pensare un po' più in là, che è chiedersi perché le cose sono così. E se uno comincia a chiedersi queste cose, scopre tutto un mondo diversissimo. Che sono le classiche domande che fanno i bambini. Che fanno, no? I bambini, inutilmente, perché i bambini cercano di spiegarlo agli adulti che si fa così. Il bambino dopo 2 o 3 anni che sta con gli adulti capisce di essere in mano degli incompetenti. Certo, cioè, è fantastico. Lui si intende benissimo con gli animali domestici, chiede come mai, e il gatto risponde: sono così. Non dirlo a me. Allora vuole intervenire il bambino, comincia a fare domande intelligenti, di ontologia soprattutto, ma soprattutto di metafisica. L'adulto non capisce, perché si è messo in mente che un bambino è un bambino e non si chiede perché un bambino è un bambino. Comunque, ma... guarda, allora, su questa cosa qui mi è venuto in mente un episodio che mi raccontò Piero Chiambretti, di sua figlia piccina, che ha 4-5 anni, che l'ha messo in crisi con una domanda, perché un giorno erano a passeggio e così d'amblè la bambina a un certo punto gli ha detto: papà, mi manca tanto Gesù. E Piero, che non sapeva questa domanda, a questa affermazione cosa dire, gli ha risposto: anche a me. Perché ha detto, io non ho detto, ma come anche a me? Ma cacchio, chiedi. Lui fa: no, io non ho voluto fare domande, non avrei saputo che cosa rispondere. Cioè, i bambini effettivamente a volte ti fanno... Perfetto. Facendo questa domanda, lei fa un ponte che l'adulto non fa mai. Cioè, l'adulto si immagina che le figure della letteratura, del cinema, eccetera, sono là. Poi, segretamente, vedendo il film, si identifica magari. O leggendo il libro si identifica, però poi quando finisce il film o richiude il libro pensa: no, loro sono là, io sono qui, non c'è problema, loro sono di un mondo diverso, io sono del mondo reale. E reale è una brutta parola, bruttissima parola. Ecco, ti interrompo un secondo. Allora, Igor Sibaldi è un filologo, quindi voi ci sentirete oggi prendere delle parole e, come possiamo dire, metterle in officina praticamente. Sono una continua sorpresa. Perché dicevi il reale è una brutta parola? È brutta. Perché quando tu vuoi dire, ci sono delle parole brutte di questo tipo, per esempio dici caffè è una parola bella, no? Caffè è una parola bella, perché è chiara, cioè tu entri in un bar, dici un caffè e subito una persona si muove e te lo fa. Reale invece, quando tu dici reale, vuoi dire qualcosa che la parola non dice. La parola, uno dice sarà sicuramente latina, invece non è latina. Nel vocabolario latino non c'è la parola reale. Ah, non c'è reale nel latino. E questo cosa significa, scusa, che non c'è una sia parola reale? Si chiama del latino, vi sto per dare una notizia un po' angosciosa. Ah. Allora, i latini non avevano una realtà. Non erano una non realtà. Non avevano una realtà, non gli interessava. Erano molto più evoluti. E il latino barbaro ha la parola reale. Cioè, quando l'impero romano si è disgregato, sono di barbari. I barbari non capivano niente. Cioè, già digli 2 per 2 4 si sospettivano, per dire. I barbari, questo? Mettevano mano alla spada, dicendo: no, cosa mi stai due cercando? Per due mi stai cercando di fregare. E loro avevano l'idea, parlando in latino per intendersi, inventano la parola reale. Reale vuol dire a livello delle res, delle cose. Cioè, per esempio, reale, qui c'è il tavolo. Ok. Il tavolo. Se io penso che cosa fare adesso con questo tavolo, se spostarlo, dico, questo già non è più realtà. Tutto quello che pensiero non è realtà, è di sopra, stando alla prova reale. Reale vuol dire il grado zero dell'intelligenza. Ma pensa a te, no, ma mi sorprende questa roba qua. Allora, l'italiano è una lingua polisemantica, no? Allora, sarebbe, reale, aspetta, ma parlate anche con me, che con una una parola può voler dire diverse cose. Ah, okay, e a me, quando tu dici reale, mi viene in mente anche reale inteso come regale, cioè sì, quella è un'altra, però un'altra, però è un'altra roba, sì. Cioè non ha un'attinenza. Non c'entra niente. No, perché da re, questo viene da res, che vuol dire cosa. Ah, ecco. È brutto reale, perché uno dice è importante la realtà. L'importante è la realtà, ma la realtà è la realtà è proprio livello zero. Qualsiasi cosa tu fai è irreale. È una cosa tanto più importante quanto più è irreale. Cioè, ah, sì? Sì, certo. Cioè, se uno è realistico non fa niente, lascia le cose come stanno. In questo caso cioè, gli animali sono, come si dice, sono avanti a noi. Totalmente metafisici. Totalmente metafisici. Infatti, a parte i bambini, l'altro grande maestro di metafisica sono gli animali. Se si riuscisse a parlarci insieme, non è difficile, perché comunicano con tu, non comunicano le parole perché le ritengono troppo squallide. C'hanno ragione. Perché... E poi ti pigliano per il culo con le parole. Sanno che con le parole si può mentire, per cui pensano che è una perdita di tempo. Allora loro comunicano con gli occhi, con l'odore, con lo sguardo, con i movimenti, con la coda, soprattutto con il pensiero. Guarda, adesso mi sta venendo ma il pensiero non è fatto soltanto di parole, è fatto anche di immagini, cosa? Ecco, questa è la metafisica. Allora, tutto quello che è indicato dalle parole è, diciamo, piano fisico. No? Metafisica è un problema che è il territorio degli artisti, degli scopritori, dei teorici, in cui si arriva solamente se riesci ad andare oltre le parole. Oltre le parole, cioè alle cose qui si va un po' nel difficile naturalmente, però si va un po' nell'animale qui, no? Cioè un animale capirebbe subito questa cosa qua. Se io dicessi bisogna stare nella zona in cui sono le parole, il cane comincerebbe a scondizionare dicendo oh finalmente, no? La mia vita ha un senso a questo punto, non sono qui inutilmente. Il gatto socchiuderebbe gli occhi dicendo arrivati. Ci sono arrivati. Ecco, vedi. Senti, ma un'ascoltatrice che a cui avevo chiesto via mail se voleva parlare con noi durante la trasmissione, ma non mi ha ancora lasciato il suo numero di telefono, mi ha colpito perché in tutta una mail dove racconta il suo rapporto con gli animali, che ha scritto anche delle cose, ha scritto dei racconti, uno intitolato Il paradiso degli animali, alla fine però si fa una domanda, lei dice mi chiedo, e qui posso diventare blasfema, chi realmente è stato fatto ad immagine di Dio? Perché effettivamente l'animale è forse l'essere vivente sgombro da sovrastrutture, da ipocrisie, da secondi fini, come è invece l'uomo, forse legato anche al fatto che la parola è menzoniera. No, oppure... posso rispondere sinceramente oppure certo. Sono diplomatico? No, dai tutte e due le risposte, quella allora, sincera e quella diplomatica. Diplomatico dice ma adesso la Chiesa sta aprendosi anche agli animali. Okay. Fine, basta. Basta, mettiamola lì. Ma lasciamola lì. Risposta autentica sarebbe: quello che è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio è soprattutto Dio. Perché, sai, Dio è come se l'immagina l'uomo. Aspetta, mi sono persa io. Quello che è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio è soprattutto Dio. Dall'uomo. È soprattutto l'uomo. Che ho detto? Cioè, è Dio che ha creato l'uomo o l'uomo funziona che ha creato così, Dio? Funziona esattamente così. Cioè, che non si capisce un tubo? No, si capisce. Cioè, si capisce, ma ti sorprende sempre. Chi è stato fatto immagine e somiglianza di Dio? Innanzitutto, Dio. Perché Dio, naturalmente, è come l'uomo se lo immagina. Cioè, questa è una vecchia storia, già ne parlava Senofane, no? Che secondo gli etiopi, Dio ha la pelle scura. Secondo i svedesi Dio è biondo con le trecce. Certo. Secondo gli uomini Dio è un uomo, e bisognerebbe chiedere a un gatto che avrebbe tutte le sue, un altro tipo di risposte sicuramente. Non penso come proprio, Dio. Non esattamente penso, come me, ma un artiglio in più. Non penso proprio che il gatto pensi che Dio sia immagine nostra. Come si chiama l'ascoltatrice che hai citato? Così? Si chiama Miriam. Miriam, ti salutiamo Miriam. Miriam. Allora, passerei al fulcro, no? Cioè, cominciamo da qui. Allora, sì. Questa trasmissione si chiama Chiedimi se sono felice. Io voglio chiedere a Igor, secondo lui, che è filologo, che cos'è la felicità? Gli animali, dunque, è il contrario della paura. Il contrario della paura. Dal punto di vista sia filologico, sia anche filosofico, sia anche etologico. Com'è possibile filologico? Cioè, perché filologico? Allora, prendiamo facile. L'inglese, no? Uh-huh. Happen. Succedere. È accaduto. Succedere. Il verbo happen. Da cui happening, eccetera. Da cui happy. Happy cosa vuol dire? Una persona che permette che gli succedano le cose. Ah, vedi? Cioè la persona che è felice, lo stesso si può arrivare anche in italiano, però felice lungo perché è latino. Allora, happy è una persona che non ha paura delle cose che succedono. Eh certo, perché è aperto a qualunque novità. Bello, brutto. Cioè è il rapporto buono col mondo, non è contro niente, per cui quello che succede va bene. E il cane? Pensa, ma cioè, cane. I cani più felici sono quelli adattabili, si dice, cioè quelli che si adattano facilmente al cambiamento, persone, a quello che succede. Ma anche le persone. Invece l'uomo no, l'uomo impara la paura, l'uomo è addestrato alla paura. La paura, che è un sentimento interessantissimo, anzi un'emozione interessantissima, ce l'hanno praticamente solo gli uomini. È un'arma, Ma no, ma non è vero. Sì, cioè, sì, ma io la vedo nei cani la paura, scusa. Non è paura, è preoccupazione. È diverso. Vedi. Dunque, nei cani sì, in parte c'è. Allora, la paura è un effetto caotico che c'è all'interno del corpo e della mente quando il soggetto non può fare quello che può fare o che vuole fare. Mm. Per esempio, un topo vede un gatto. Il topo scappa, il topo non ha paura, mentre scappa il topo ha un picco di intelligenza eccezionale, è cauto, intelligente, attento, veloce. Giocoso, veloce, non può aver paura, la paura ha il freezing, ti paralizza, quella che succede a me, io quindi sono perfettamente un... Se tu prendi il topo, lo leghi e lo leghi in un angolo lì e fai entrare il gatto nella gabbia, il topo ha paura. Certo, perché non può. Cioè, perché non può fare questo. In natura probabilmente un animale non ha paura mai, se non quando è malato. Non è la paura che causa il comportamento di scappar via, cioè questo è quello che no, noi è la logica, questa è normale, logica. Certo, l'uomo poi interpreta tutto sotto forma di sotto forma umana. Allora aspettate un attimo, ci abbiamo un attimo break. Ma continuiamo, ma che mica finisce qui, ragazzi, tutta la puntata con Igor, io sono contenta, subito dopo. Ma fra poco. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E siamo oggi in questa puntata speciale in compagnia di Igor Sibaldi. Igor Sibaldi. E stavamo parlando della paura, cioè che la paura... Abbiamo cominciato a chiederci, a chiedermi se sono felice, della felicità, no? E quindi che cos'è la felicità? Il contrario della paura. E quindi stavamo parlando della paura. Cioè pare, secondo Igor, la paura è negli esseri umani, ma non c'è negli animali. Selvatici. Domestici, sì. Per esempio mi raccontava un carissimo amico nel suo ospizio per animali di tutti i tipi gli sono arrivate due oche. Nate o arrivate? No, arrivate. Ah, okay. Perché il proprietario non sapeva più cosa farsi. Okay. E queste oche avevano vissuto per un bel po' all'interno di un metro e mezzo quadrato, non erano mai uscite. Adesso sono libere di muoversi. Ok. Però restano sempre all'interno di un metro e mezzo quadrato e si guardano intorno, non ci sono più le pareti, si guardano intorno con sospetto, non si allontanano. Sì. Perché hanno immagazzinato l'elemento di paura. L'uomo è uguale. Anche noi abbiamo oramai delle barriere, dei recinti fondamentalmente, sì, non solo fisici ma anche mentali. L'uomo viene addestrato alla paura che, ripeto, la paura è un fenomeno brutto che si scatena all'interno dell'organismo e della psiche quando l'uomo o l'animale non possono fare quello che sono spinti a fare. Per istinto. Sì. Scappare, giocare, ridere, correre, eccetera. Allora la paura è l'impossibilità di agire, un ristagno d'energia. La paura blocca? È il blocco stesso. Gli animali non hanno questa cosa. L'uomo a 6 anni viene preso e messo a scuola, dove non può fare quello che vuole fare. Non può farlo non per un'ora, non può farlo per 4-5 ore al giorno, per un anno, 2 anni, 3 anni, eccetera. E se nonostante gli ordini fa quello che vuol fare viene bocciato, quindi ha paura maggiore. Quindi cioè, la paura è un'arma tremenda per farci fare quello che vogliamo, cioè tu sposti oggi le masse con la paura, no? La paura, solo fatti con la paura. Il vaccino perché c'è l'epidemia, solo con la paura. Gli animali non hanno l'esercito, paura e sesso. Gli animali non hanno la scuola. Perché? Perché non hanno, non hanno questa educazione alla paura che noi stiamo assumendo come seconda natura, ormai è biologica. Ed è talmente entrata nella mente dell'uomo che l'uomo la proietta dappertutto, cioè la proietta anche negli animali. Ed è per quello che tu dici, noi pensiamo che l'animale abbia paura, perché in realtà... Sì, sì, come noi pensiamo che abbia la destra e la sinistra, per esempio. Magari l'animale ha il nord e il sud, il valle e il monte, non ha la destra e la sinistra. Cioè ci sono delle lingue, no? Noi abbiamo destra e sinistra, per esempio, la nostra lingua, e pensiamo che in tutto il mondo ci sia la destra e la sinistra. Sono delle lingue che non conoscono un termine. Destra e sinistra. Per esempio, nella Bibbia a un certo punto, cioè nel libro di Giona, dice gli abitanti di Ninive non avevano la destra, non potevano distinguere la destra e la sinistra. Cosa vuol dire questo? Che erano stupidi. No, Ninive era un capolavoro architettonico straordinario, figurati se non sapevano distinguere la destra e la sinistra. Nella loro lingua non c'era il concetto c'era di sinistra e destra, c'era il concetto di est e ovest, probabilmente, di nord e sud. Tante lingue ce ne sono così. È un modo di comunicare diverso, però. Sì, sì, un modo di sentire lo spazio differente. Scusa, si potrebbe dire che più ci siamo evoluti, allora più siamo andati indietro con... Cioè, non ci siamo evoluti? No. Cioè, forse meno sapevamo e più stavamo bene, più sappiamo e più entriamo dentro una trappola? No. È solo... Ci sono dei problemi 2000 anni fa. c'erano dei problemi. Sono stati lì dei problemi che non sono ancora passati, problemi lì. Ma oggi ne abbiamo meno o di più di problemi? È sempre gli stessi che si ripetono. Fino a 2000 anni fa circa andava tutto abbastanza bene. 2000 anni fa circa cos'era? Il periodo di Cristo? Anche un po' prima. E nell'impero romano a un certo punto sono verificati una grossissima crisi. In quella crisi è venuto fuori anche il Vangelo, uno dei primi libri animalisti importanti, come sapete. Dice: guardate gli uccelli del cielo, no? Siate innocenti come le colombe e astuti certo. come gli scorpioni, astuti come serpenti. È una nobilitazione degli animali, eccezionale. L'agnello di Dio, tutte queste cose. È vero, c'erano già tutti i riferimenti agli animali. Quindi adesso noi, se vogliamo rendere più felici i nostri cani, alla luce di questo ragionamento, cosa possiamo fare? Perché normalmente nel mio lavoro si dice, ecco, rendi il cane più adattabile, più resiliente, perché così qualsiasi cosa accade, a lui gli va bene. No? Imparare. Cioè, la cosa che Imparare da loro? Sì, la cosa che fa diventare felicissimi gli animali. Io mi intendo più che altro i gatti, però se io mi metto seduto accanto al gatto, come il gatto ha veramente la felicità negli occhi, dice, finalmente un piccolo progresso. Quindi mettiti il punto di vista il mondo dalla prospettiva dell'animale. Sì. Quindi devi imparare a metterti a guardare le cose come... è una forma poi di recalco, rispecchiamento, lo chiamiamo noi, mettiti a fianco a lui, fai un po'... Come dice la Bibbia? Cosa dice la Bibbia? Allora, c'è quando dice riempite la terra e soggiogatela. No? Lo dice Dio secondo le traduzioni normali. Crea l'uomo, no? A un certo punto fa tutta questa creazione, quei sette giorni famosi. A un certo punto crea l'uomo e dice riempite la terra e soggiogatela. È la traduzione consueta, ma non dice così. Ah, non dice così. No, dice, discendete in tutti gli animali, dice. Cioè imparate a entrare nella profondità di tutti quanti gli animali. Ma veramente? Bellissimo. Ma questa è una roba che io mi devo andare a vedere, perché soggiogatela a me dava un po' di fatene un po' quel cacchio che volete, perché tanto anche se distruggete, fate, usate, vivisezione, no. E invece? D'altra parte ha senso, l'uomo è creato per ultimo, è creato per ultimo, quindi gli altri sono più esperti, si tratta di imparare. È un'idea egiziana che viene dall'Egitto, non per niente gli dei egizi avevano un aspetto animale. Era teriomorfi, no? Si dice. Sì. Cioè, per gli egizi l'idea di evoluzione era totalmente diversa dalla nostra. Cioè, noi pensiamo l'animale è molto indietro e noi siamo molto avanti. Certo. L'animale non pensa così, naturalmente. Cioè, se il mio gatto sapesse che la penso così, mi stimerebbe molto meno. Certo, giustamente. Perché mi farebbe notare chi pulisce la cassettina a chi. Certo. A chi pulisce, chi va a lavorare, chi porta i soldi a casa e va a lavorare per... chi castra chi? E pensa che sia normale, no? Io a voi no, però voi a me sì. Fantastico. Questo è barbaro, no? È molto barbaro. Certo. Però l'uomo pensa di essere evoluto, siccome lui parla da solo non si dà torto, no? Ecco, se la racconta, se la canta e se la suona, come dicono a Roma. Negli egizi è interessante che c'è l'idea appunto di reincarnazione, allora la si chiama così adesso, però in un altro modo. Allora, l'uomo, dice anche Pitagora, deve farsi il giro di tutti gli animali per capire qualcosa. Ah. Cioè, uno è uomo, poi deve diventare tartaruga, poi deve diventare serpente, poi deve diventare... Cioè, che è una metafora naturalmente, vuol dire per riuscire a ampliare la propria conoscenza non basta essere umani, bisogna imparare a essere animali. La parola essere umano, un essere umano, è molto limitativa. Naturalmente noi diciamo che l'animale non ha l'anima, no? È un'idea fondamentale della Chiesa. Ah sì? Eppure sì. Anima... Sì, lo si dice così per prenderlo in giro, probabilmente. No. Perché, perché lo si teme. È come chiamare a 100-metrista uno zoppo, ecco. Certo, esatto. Cioè, non lo so io. Ma dove ti vengono? Questi esempi, perfetto. Centometrista, cioè, com'è? Ciao, centometrista, che è un amico zoppo. Che è un amico zoppo. E così le chiami animale, no? La chiami animale perché non c'è l'anima e li chiami animali. Ah. Secondo noi, dopo quella brutta crisi che c'è stata circa 2000 anni fa, ma altrove no. Per esempio, i Vangeli, no? Che è l'ultimo elemento pre-crisi, diciamo. I Vangeli chi li ha scritti? Gli evangelisti, ma non da soli. Gli animali? Ogni evangelista c'ha un suo animale. Eh sì, è vero, era preso da uno dall'aquila. Giovanni dall'Aquila, che l'Aquila gli detta il libro. Uno dal lupo. Scusa, ma io non la sapevo, no, sta no. roba. Luca, uno dall'Aquila, me lo ricordavo. Luca dal toro. Ah, dal toro. Toro gli detta il libro. Poi c'è Marco dal leone. Sì, dal sì, leone. È vero. E Matteo dall'angelo, che naturalmente l'angelo è un ibrido animale. Come voi, come certamente, perché è un essere umano. Toro, leone, aquila e angelo. È più evoluto di un essere umano. Cioè, sì, no, ibrido nel senso. Uomini, angeli, Dio, la gerarchia, no? E uno dice, se essendo più evoluto dovrebbe essere molto più umano, sovrumano, eccetera. Per raffigurare questo, ai tempi andati, per raffigurare un essere più evoluto, gli si mettevano le ali da colombo o da cigno. Cioè, è più evoluto perché ha integrato un elemento animale. È vero. Guarda che pazzesco, però ci hanno allontanato da queste varie consapevolezze, capito? È l'Occidente. Cioè ci hanno allontanato, ce l'hanno fatti dimenticare, non c'è più radici di questa cosa qua, bisognerebbe invece veramente parlarne tanto e far ritornare. Perché è vero, tu mi hai fatto venire in mente in questo momento, io penso, mi ricordo la cupola di una chiesa dove ho fatto la prima comunione, che l'ho guardata per anni perché andavo a scuola dalle suore, che adoravo le mie suorine, fantastiche, e mi ricordo che c'era l'immagine dei quattro evangelisti e ognuno di loro aveva l'animale dietro le spalle. Eh sì, che è la guida, cioè senza quell'animale lì il Vangelo non scrivevano, secondo questa antichissima teologia da noi perduta. Poi ci sono alcune possibilità di risveglio, per esempio, non so, a Barcellona c'è la chiesa, la Sagrada Famiglia di Gaudí, su una facciata della chiesa ci sono tutti i santi, sull'altra facciata, non so se l'avete vista, no, ci sono tutti gli animali. Ah sì? C'è una facciata di una cattedrale con la gallina, con bellissimo, il gatto. Che uno non si aspetta di vederla su una chiesa, ed è l'idea di una religione che non esiste ancora, che può benissimo invece prendere forma e sarà un enorme passo avanti nell'evoluzione e nella felicità. Angelo dice sempre che noi siamo debitori nei confronti dei cani, vabbè, perché il cane è l'animale che ha vissuto più assieme all'uomo, no? Condivide un sacco di cose, gli animali ci aiutano a salvare le persone, che ne so, sotto un terremoto, le valanghe, queste cose qua. Però credo che è giusto quindi dire che noi siamo veramente in debito verso il regno animale? Cioè, certamente, cioè in debito è molto indietro. Perché rispetto a loro? Certo, loro non hanno le tasse. Ecco, per esempio non hanno le tasse. Senti, invece ti voglio chiedere una cosa, che poi adesso non so quanti minuti mancano, Peter? Un minuto, però io intanto ti faccio la domanda. Si dice che una delle cose che rappresenta il cane è il fatto che sia un animale fedele, no? Che spesso anche se uno lo maltratta, lo lascia chiuso in casa, lo abbandona in giardino, però lui quando ti accoglie scodinzolando non ti abbandonerebbe mai, rimane veramente fedele, cioè non ti tradisce mai. Cosa un po' lontana da quello invece che è l'uomo, cioè tu perché guardi me quando non ho capito buttavo l'occhio, no, non lo so, perché stavo pensando, no, perché a me è venuto in mente che avevo sentito Igor una volta parlare di fedeltà e tradimento e mi aveva colpito tantissimo. Perché una frase che mi aveva colpito, che mi aveva divertito molto, poi molto relativamente, io sono sempre stata tradita, quindi pensandoci mi ha fatto incazzare, che ha detto che fondamentalmente la persona che tradisce è quella che ama di più. È quella che ama di più. All'interno di una coppia in crisi. Ecco, mi era mancata questa parte, all'interno della coppia. Però vi lasciamo con questo quesito, facciamo un attimo un break. Tra poco parleremo di amore e tradimento. E Igor poi ci racconterà bene. Accerta, indaga, documenta, accerta, www.accerta.it. Vi presenta... Domenica, ore 14:30, Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Beh, stavamo parlando con Igor Sibaldi, che è ospite qui a Chiedimi se sono felice, il mondo della prospettiva animale. Stavamo parlando di fedeltà e tradimento, visto che il cane è l'animale per eccellenza più fedele all'uomo. Rappresenterebbe la fedeltà, no? E io ero rimasta colpita da una tua frase, che però mi mancava l'altra metà, quando dicevi che la persona che tradisce è fondamentalmente quella che ama di più. Io dicevo, come? In una coppia in crisi. Ecco, mi mancava questa parte, in una coppia in crisi. Ci puoi spiegare perché? Beh, perché in una coppia in crisi la persona che... una tende ad andare via, praticamente. Tutte e due tendono ad andare via. Per non andare via, uno che ama proprio l'altra persona dice, pur di non andare via, chiediamo aiuto a un'altra persona. Bellissimo. Cioè, vabbè, capisci che assume, fa molto ridere, perché così come la mette fa molto, ma t'ammazzo se tu mi tradisci, Aggio. La spiegazione di Grossibaldi non vale per te, sappilo. Siamo in crisi, devo adoperare altre forme. Come sempre, no? Vado a chiedere, scusami, sono in crisi, vado a scopare con un altro, scusate il termine, vuol dire vado a letto con un altro, vado a chiedere aiuto, amore, vado a chiedere aiuto a uno, perché t'ammazzo. Siamo in crisi. Ecco, appunto. D'altra parte la lingua tradisce questa cosa, tradisce questo aspetto di tradimento, cioè nel senso buono, no? Tradire vuole anche dire la verità in un certo senso, cioè quando uno tradisce un sentimento vuol dire che lo sta dicendo. Sono questi due significati di tradimento. No, mi sono persa, scusami. Sono cioè, tradire. Tradire vuol dire condurre avanti, no? Condurre avanti. Per cui uno può dire la lingua tradisce questo sentimento nell'espressione che usa, cioè esprime in fin senza accorgersi questo sentimento nell'espressione che usa, che è amante. Allora, perché il terzo, cioè il terzo elemento si chiama amante? Si chiama amante, voce del verbo amare. No, io la chiamo anche in un altro modo, il terzo elemento. Se è femmina. Ovviamente. La chiamo in diversi modi. In lingua italiana si dice amante, ma anche altrove, no? Dice l'amante. Allora, se lui l'amante ama, il marito cosa fa? Marita. Nel frattempo. Il marito che fa? Marita. No, guarda, che fa il marito nel frattempo? L'amante ama, il marito marita. Invece l'amante è proprio l'amante. Che strano, perché se tutto andasse bene, il termine amante sarebbe riferito al coniuge. Certo. E invece tutto è riferito bene al non coniuge. Cioè, quindi, se io dico amante, immediatamente uno pensa a un terzo. Sì, okay. Giusto. Ma non capisco perché tu dici che quello che tradisce in una coppia in crisi è quello che ama di più. Perché tradire è una fatica. Adesso io non sono esperto di questa cosa, però tradire è una fatica terribile. E l'allero. Perché, sì, perché dire la verità non importa che ti ricordi quello che dici. Esatto. Perché tanto dici la verità, è vero, no? Vai a vedere. Certo. Se tradisci, devi mettere in moto un sistema, che è una forma di paura, tra l'altro, in cui tu devi avere una memoria tremenda. Che non è il mio caso. Perché se tu sbagli, dici che martedì sei stato in un posto che poi non è vero, hai la doppia versione quando tradisci, no? Cosa hai fatto ieri? Ieri sono stato da questi miei amici, che non è vero. Devi ricordarti che hai detto... Che lì sei stato... Poi devi stare attento alle espressioni facciali, devi stare attento agli stati d'animo, devi fingere, non devi sbagliare i nomi. Perché tu dici se uno tradisce... Che fatica, capisci? Sì, però tradiscono tutti, Igor. No, io no. No, beh, grazie, io nemmeno. Però... Ma secondo le statistiche, tipo l'85%, se non mi ricordo, insomma, è una percentuale elevatissima di gente. Chiedimi se sono fedele. Chiedimi se sono fedele, bello. Chiedimi se sono nuova trasmissione radio, chiedimi se sono fedele. No, quindi Igor dice: siccome tu sei in crisi, ma quella coppia la vuoi tenere, quello che ti manca lo vai a cercare altrove per poterla tenere insieme. Insomma. E c'è questo volontario che si chiama l'amante. Perché sennò te ne andresti. Questo volontario che si chiama l'amante, ha detto. Questo volontario che si offre sapendo di non avere futuro. Sacrificandosi, tra l'altro, no? Perché alla fine si sa che alla fine loro due tornano insieme e l'amante rimane fuori dalla finestra a guardare, sospira e si allontana la notte. Che è triste fare l'amante, è una categoria che ha una funzione sociale importante, in fondo trascurata. Non l'avevo mai vista sotto questo profilo. Pensa che io il primo libro che ho scritto era Grazie a Dio alle corna. Inteso proprio grazie a Dio sono stata tradita. Cioè, avevo fatto un'altra analisi, ma non lo vedevo così affaticato quello che mi tradiva, e l'amante non la vedevo così, così con l'aurea, ecco, con l'altro video regia. Immagino un esperto. Sì. Ha detto che il tradito è quello che si chiama generosità, dice, sì, quello sì, che tradisce. Beh, si vede dallo sguardo che certo, è una persona che ha esperienza. Senti, il mio ex fidanzato, che è Igor, che era fiorentino, da cui poi decisi di scrivere il libro Grazie a Dio le corna, un giorno esasperato gli ho detto: guarda, adesso la devi finire. Gli ho detto di farmi le corna e di tradirmi. Lui mi ha guardato come se avessi detto una bestialità e mi fa: io ho un fo' le corna. Dico: ah no? Dico: cosa fai? Fo' favori. Cioè faccio bello favori. Questo. Come è bello! È un amante. È un amante. Sì, appunto. Non voglio difendere gli amanti. Sto solo dicendo, è una cosa molto reprensibile. Però all'interno di una coppia in crisi capitano queste cose. Sì. Poi ecco, tutto è bene quel che finisce bene. Certo, ma adesso a parte gli scherzi, che poi comunque non stiamo scherzando, ma all'interno di una coppia in crisi io sono la prima a dire che ci sta e che a volte tu anche andando con un altro capisci che forse la persona che realmente amavi, certo, che volevi era questa. No, no, su quello no, ne possiamo parlare, sono d'accordissimo. È invece nell'abitudine superficiale anche di due persone che non sono in crisi, c'è questa abitudine di legare, di dire ma sì, chi se ne frega, cosa gli tolgo, c'ho voglia di farmi una serata di sesso con uno o con uno di passaggio, va bene uguale. Beh, quello è tipicamente umano. Essendo l'uomo una persona, cioè un l'uomo essere... inteso l'essere umano o l'uomo inteso solo l'uomo? Maschio. No, no, no, l'essere umano, nel senso, sia maschile che femminile. L'essere umano è l'essere vivente probabilmente più in crisi della Terra. Ah, certo. Quindi tende a non scommettere su niente, perché ha paura. Tende sempre ad avere questa paura così forte che è pronto a mollare qualsiasi cosa. Cioè, sono dei codardi tremendi. No, che vuol dire pronto a mollare qualsiasi cosa, cioè? Dice Shakespeare che la coscienza ci rende tutti vili. La coscienza ci rende? Tutti vili. Bellissimo. Cioè, l'essere consapevoli delle cose ci blocca in tutto, ci fa dubitare di tutto in realtà. Ah. Cacchio. Ci toglie qualsiasi tipo di certezza e di scommessa e di eroismo. L'eroe, diciamo, secondo Shakespeare, è un inconsapevole. È un incosciente. Quindi scusami, oggi, esatto, oggi si parla tanto questa parola super... No, la prendiamo tra poco. Tra poco parliamo di consapevolezza. Un minuto. Allora, no, tra poco. La cosa che invece volevo dire io è questa cosa del tradimento, come la riduciamo agli animali, no? Prima si faceva qualche battuta sugli animali. L'animale scommette. L'animale scommette, cioè? Ah, no, ci crede. Ci crede. Certo, vedi. Quello che dovremmo fare noi. Fantastico, io amo gli animali sempre di più. Quindi no, dire... allora mi dicono dalla regia che questo è l'ultimo, cioè stiamo finendo la trasmissione. Io pensavo che ci fosse ancora. Igor, devi rimanere qua. Igor, torni la prossima volta, perché domenica prossima parleremo di comprensione degli animali o anche delle altre persone e di consapevolezza. Facciamo una puntata di 2 o 3 ore con Igor Sipaldi. Grazie. Allora, buona domenica, scriveteci a Chiedimi se sono felice @radio24.it e domenica prossima Igor altra sarà ancora speciale con noi. Puntata con Igor Sibaldi. Buona domenica. Ciao.